Qualcuno che non parta dal presupposto di volermi accusare o giudicare, ma che mi faccia delle domande per sapere cosa sia successo, quali siano le conseguenze, sapere se credevo di fare la cosa giusta. Ho pensato si trattasse dello strumento giusto. È per rispetto nei confronti del popolo italiano che mi sento di dire quello che ho fatto l'ho fatto per cercare di salvare l'Italia. Non sono un santo, sono semplicemente un essere umano, ma ho fatto del mio meglio per salvare un paese che stava andando rapidamente alla deriva e per disinnescare un terrorismo che in Italia non deve più tornare. In Italia o in qualunque altro posto. Mix 24. Sono le 9.38, 56 secondi per provare a capire i punti oscuri ancora che restano non risolti del caso Moro, oltre naturalmente l'indagine che sta facendo il PM Luca Palamara. Abbiamo Piero Corsini, grande esperto del caso, giornalista. È possibile che dopo 35 anni, decine di processi, ci sia ancora qualcosa da scoprire sul caso Moro? Intanto buongiorno a lei direttore e ai suoi ascoltatori. Sì, assolutamente sì, c'è un livello ovviamente delle indagini, certo. Cioè non è vero che, come sostengono i brigatisti in tutti i processi, anche con un tono di fastidio ormai, dicono no ma si sa tutto, ma che cos'è che continuate a cercare, si sa tutto. Non è vero affatto che si sappia tutto, ci sono tante cose che non si sanno. Partiamo dalla più eclatante, c'è il famoso ingegnere Alessandro Marini a cui due persone a bordo di un motocicletta hanno sparato in via Fani, testimone oculare a cui hanno sparato in via Fani. Allora, questo ingegnere, siccome questi brigadisti continuavano a dire ma non è vero, non c'era nessuna moto Honda a via Fani, eccetera, eccetera, era talmente disperato che un giorno ha portato in aula al processo Moro il parabrezza del suo motorino tutto crivellato di proiettili. Ha detto adesso mi credete che qualcuno mi ha sparato? E l'hanno creduto? L'hanno creduto, infatti la magistratura ha condannato i brigadisti anche per il tentato omicidio dell'ingegner Marini, certo. Però i brigadisti continuano a dire che non è loro che è quella motocicletta Honda a via Fani. Allora di chi era? Qualcuno gli ha sparato a questo povero ingegner Marini? E l'Honda c'era, e quindi un altro interrogativo. Ecco. Esatto. A proposito dell'intervista che abbiamo fatto a Picenic, secondo te quanto è credibile Picenic? Ma senta, è possibile che esageri sicuramente il proprio ruolo e la propria funzione, però dall'altra parte io direi anche che ci sono degli spunti estremamente interessanti. Ancora una volta sono spunti su due livelli, cioè c'è un livello giudiziario e un altro storico. Quando ad esempio lui dice le Brigate Rosse mi hanno individuato subito appena sono sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Quello è inquietante, sì. Qualcosa, lui si lancia questa frase lapidaria senza approfondirla, ma che vuol dire? Chi gliel'ha detto che era stato individuato? Certo. E quella persona che gliel'ha detto, che immagino fosse dell'entourage di Cossiga o comunque del Ministero degli Interni, come faceva a saperlo? Certo, perché che era una cosa segreta, certo. Certo. Quindi fa ipotizzare un rapporto fra il Ministero degli Interni e le Brigate Rosse in qualche modo, che comunque il Ministero degli Interni avesse più infiltrati dentro le Brigate Rosse di quanto comunemente si pensi nei giorni, sto parlando del caso Moro, certo. In quei giorni lì. Quando poi invece racconta la genesi del famigerato falso comunicato della duchessa, quando si diceva che Moro era sepolto nel lago ghiacciato in Abruzzo, eccetera, no? Ecco, questo è più uno spunto, se vogliamo, storico, perché giudiziariamente sposta ben poco. Certo, naturalmente. Invece, da un punto di vista storico, ma oserei dire anche politico, lì c'è molto secondo me da scoprire. Io lì ho sempre ipotizzato che quel messaggio, però questa è un'ipotesi, certo, personale naturalmente, che lascia il tempo che trova, fosse in realtà un messaggio per Moro. Cioè dalle lettere di Moro era chiaro che Moro leggeva quello che si diceva sui giornali. Certo, questo è sicuro, oramai mi sembra è acclarato. Chiaro, sì. Quindi le lettere di Moro, siamo, ricordo, al 18 aprile, quindi siamo a un mese e due giorni da via Fani, tanto per collocarlo nel tempo. Moro a questo punto ha capito che i suoi appelli stanno cadendo nel vuoto. E quindi allora... Diciamo... E quando il comunicato numero 7, il falso comunicato, dice comunichiamo l'avvenuta esecuzione dell'onorevole Moro mediante suicidio. Il messaggio poteva essere: attento, se continui a scrivere e scrivere in questi termini ti stai suicidando. Cioè un messaggio della politica a Moro. Noi sappiamo che quel comunicato nasce il falso comunicato. Vabbè, corrisponderebbe esattamente a quello che dice Pigeni, che detto in un altro modo, ma è esattamente nasce quello. All'interno, diciamo, della politica, del Viminale, certo. Poi se sia stato confezionato o no dalla banda della Magliana, questo d'accordo, è un'apertura diversa. Ecco, ma quindi Gotor, lo storico Gotor, che dice che ormai il caso Moro è solo materia per storici, ha torto. Sì, come ha torto anche altri storici che dicono basta con tutte queste dietrologie e questi complottismi sul caso Moro, tutto quello che c'era da scoprire si è scoperto, ma non è vero affatto. Secondo me ci sono tantissimi ancora interrogativi irrisolti. E quindi la commissione d'inchiesta che si farà potrebbe servire davvero a qualcosa? Intanto bisogna vedere se in questa traballante legislatura si farà. Se si dovesse fare, bisognerà poi vedere di quali poteri sarà dotati. I consulenti della commissione Mitrokhin, cito quella più recente in questo ambito, sono stati dotati di poteri molto ampi, perché hanno consentito, per esempio, di avere una nuova prospettiva possibile sulla strage di Bologna. D'altra parte, questa commissione sarà efficace, servirà a qualcosa se avrà tempo e pazienza di esaminare e approfondire tutti quei dettagli nei quali di questo abbiamo parlato. Va bene, grazie. Mix 24 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Che cosa bolle in pentola oggi? Eccoci, buongiorno. Allora, ciao Mario. Buongiorno. Ma Arafat ucciso col polonio è difficile da detectare dopo tanto. Ora, insomma, misteri arabi medio orientali, non lo so. Io sono un po' scettico. Una rivelazione strana e tardiva, che dici, Pietrangelo? Mi esprimerei con una canzone. Chissà chi la ricorderà ancora. Luglio, agosto, settembre nero. Giocare col mondo facendolo a pezzi. La voce di Demetrio Stratos, una delle più grandi voci della memoria contemporanea, erano gli Area e cantavano al mondo quello che poi è diventata l'indifferenza del mondo. Tutti hanno pianto per il Sudafrica, tutti adesso celebrano Mandela. Nessuno mai si ricorderà di quello che è accaduto, che accade ancora in Palestina. Devo dire, non male questo ripescaggio della memoria. Questo è un ripescaggio interessante. Beh, visto che siamo in ripescaggio, è stimolante. Segnalo che col polonio, invece, questo è sicuro perché lo beccarono subito, purtroppo per lui, è morta la spia russa Litvinenko. Certo, a Londra. Seguito da pochi in questo momento, ma è in corso una battaglia legale gigantesca, il governo inglese ha messo il segreto, spuntano notizie quasi tutti i giorni e nessuno se lo ricorda. E a proposito di spie, c'è il triste futuro di Snowden, perché ho letto anche su anche lui, naturalmente. Lui, non si sa che fine lui farà. Lui tecnicamente è un traditore, sì. E i traditori, se sono al soldo della CIA, poi fanno sempre una brutta fine, perché siamo in clima. Oh yeah, James Bond. Bene, senti, ma ce la fai sempre a mettere James Bond. Bravo, Fleming, Fleming. Quando Fleming, uno appassioni. Il commissario Bassettoni mai. Ma no, lui no, James no, Bond. No. No, io vorrei però una mia piccola bolla. Fare gli auguri a Gigi Riva, grandissimo Gigi Riva, che oggi è il suo compleanno. È risardo, rombo di tuono, rombo di tuono. Vai. A proposito di rombi, di tuoni, eccetera, è tempo di congressi. Ce ne sono due praticamente in corso. Uno è quello del PD e l'altro è il Consiglio Nazionale del PDL. E qua io penso che... PDL, tu Pietrangelo, lo inzaccherei nel salamino il PDL. E vai col salamino allora. Perché Silvio Berlusconi ha convocato per il 16 novembre il Consiglio Nazionale del PDL. La notizia ha sorpreso Angelino Alfano, che però non sembra terrorizzato, anzi, vuole muovere guerra. Però nel frattempo Denis Verdini è andato da Silvio Berlusconi e gli ha detto i veri numeri, quindi non preoccuparti, non se ne andranno via, però memento, come accadde quella volta quando Fini protestava e dissero se ne andranno via in 3 in 4, gli si sfasciò il partito e quindi hanno perduto tutti. Tutti. Hanno perduto la tramontana. Bene, mi sembra che la tramontana. Anche perché poi c'era il filo della sottana. Meglio la sottana. Mi sembra che la tramontana la stanno perdendo però un po' tutti i due grandi partiti. Mamma perché questa mia. Vicenda Beh. Dei tesseramenti nella sua originalità citiamo è abbastanza anche i giornali, orrenda. Citiamo anche i giornali. Il Corriere della Sera oggi apriva sul caos, sulla rottura del PDL e Repubblica. Scusa, ma apriva... il Corriere è buttato a sinistra o a sinistra? E terzista. Ma davvero? Repubblica apriva sul caos del PD. Il PD molto interessante perché tessere moltiplicate, Epifani dice fermiamo tutto, la guerra tra le correnti, sembrano le manovre segrete durante un congresso del PCUS, ma lì a quanto pare nessuno è stato comunista e nessuno era sulla locomotiva. Giova. Per averne di più comunque, faccio come Crozza. Più, per saperne Giova. Di più, dimmi. Giova, sei un idolo di Eccolo Crozza. Qua, sì. Giova, ma insomma, cosa ti sembra a te tutto questo clima politico? Ma, dai. Mi sembra che domani ne sapremo molto di più. Perché Bersani verrà a fare il faccia a faccia. Eccolo. E sicuramente, adesso che è più libero, ci racconterà la versione di Bersani, chissà che non sia interessante. Ma è come il Cavaliere, sai che Giuliano Ferrara aveva coniato una frase fantastica sul Cavaliere nelle condizioni attuali, è il prigioniero libero. Bersani è simile? No, è diverso completamente, Buttafuoco, è diverso. Buttafuoco si è inserito, perché no? Perché il Cavaliere è veramente prigioniero. Appunto, gli questo hanno, dicevo. Gli hanno tolto pure il passaporto, avrà una voglia irresistibile di andarsene all'estero. E ha quindi... detto di no, ha detto che lui non vuole andare via perché, dall'Italia. Ma perché secondo te corrisponde alla sincerità, alla dichiarazione in Berlusconi? Cioè, non lo so, questo, tu lo conosci meglio, io lo conosco poco. Io sto a quello che dice, mi accontento. Senti, comunque c'è una lettera aperta di Cicchito al Cavaliere stamattina. Era bella. Molto bella. Io molto ho letto bella. Il titolo. Perché Cicchito è figlio di una tradizione politica e quindi sa creare la drammatizzazione. Il Cavaliere ovviamente è estraneo alla politica, considera tutto ciò un disturbo. Giovanni, la vuoi una bolla curiosa? Dai, ci abbiamo ancora 2 minuti di bolla. Ma che meraviglia. Vai. Allora, la bolla curiosa è che negli Stati Uniti ha chiuso qualche giorno fa l'ultimo Blockbuster. Ve le ricordate? Ah, le videocassette. Ma questa... ci sono le edicole ancora negli Stati Uniti a forza di chiudere tutto? Beh, negli Stati Uniti non è che hanno le edicole, tu sai che e le hanno, cabine telefoniche hanno... ce l'hanno? Sì, quelle sì, per forza. E le macchine, ma le hanno i distributori ce le hanno? Automatici di le giornali. Le automobili ce le hanno? Sì. I razzi ce li hanno? Sì. E razzi? Quello lì. Razzi, no, Razzi, quello è del PDL. No. Dato... ma ce l'hanno il PDL? Beh, sì, vabbè, adesso senti, ma dato che la legge di stabilità, cerco di mettere un po' d'ordine, è ancora sempre lì. E cosa se pagheremo o non pagheremo la seconda rata dell'IMU, sempre che si chiami IMU, è ancora un dubbio. Noi ritorniamo con il nostro tormentone. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. E adesso la storia di Mix 24... curata da Marina Milone, la storia drammatica di Enzo Tortora.